piace. Se c'è una situazione sotto gli occhi di tutti che è chiara, la devono vedere loro. Che dobbiamo chiamare? Ci abbiamo già tanti pensieri durante la partita, dobbiamo pure chiamarci il VAR. Ma è la gente che sta lì che fa. Dobbiamo convocare la banda. Convocati Weekend di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo. E in questa domenica anche di Claudia Schiattone, autrice di questa puntata, Roberta Fresani, Andrea Roccabella in regia. Allora, cominciamo con i risultati, ve li diamo bene con i marcatori. Partita del pomeriggio, Juventus batte Brescia 2-0, Dybala 38esimo del primo tempo, Cuadrado alla mezz'ora della ripresa, Brescia che ha giocato in 10 per l'espulsione di Ayed al 37esimo del primo tempo, poi largo successo 5-1 della Fiorentina in casa della Sampdoria, autorete di Thorsby, Vlahovic e Chiesa su rigore nel primo tempo, nella ripresa ancora Vlahovic e Chiesa, poi nel finale il 5-1 di Gabbiadini, vittoria esterna del Parma a Reggio Emilia contro il Sassuolo 1-0, gol di Gervinho al 25esimo del primo tempo, nella gara delle 12.30 0-0 tra Udinese e Verona, alle 18, quindi tra poco meno di un'ora, Cagliari-Napoli, alle 20.45 la sfida scudetto Lazio-Inter, ricordiamo domani è invece il turno di Milan e Torino, per una classifica che racconta, dopo i risultati del pomeriggio, una zona calda che si accorcia, il KO della Sampdoria fa sì che dal Torino 14esimo al Genoa 18esimo ci sono 5 squadre in 5 punti, che diventano 7 in 7 punti se si sale fino al Sassuolo. Nella zona Europa League, attenzione perché Cagliari-Napoli assomiglia a uno spareggio, ci sono 6 squadre in 5 punti, dal sesto posto del Verona, che oggi ha preso un punto a Udine, all'undicesimo del Napoli. Questo è il menù della domenica, oltre ovviamente alla presentazione di Lazio-Inter e il racconto anche di come è andata la partita della Juventus. Ciao Pier. Ciao. Un saluto anche a te, Carlo. Ciao, Genta. Ciao a tutti. E adesso il menù della domenica. Allora, menù della domenica che comincia dalla Juventus, che ha vinto 2-0 contro il Brescia. Le condizioni sono quelle che vi abbiamo raccontato prima. Tra qualche istante ascolteremo Sarri, i microfoni di Sky. Vi faccio sentire però parateci prima della partita, a proposito degli esami che non finiscono mai. Che cosa rispondi a chi in queste ultime settimane, in questi ultimi, dopo gli ultimi risultati, ha messo Sarri in discussione? Ma credo che alla Juventus siamo ogni giorno tutti in discussione, è esattamente come gli altri anni. Allora, oggi era una partita sulla carta scontata, al via c'erano quasi 40 punti, 38 tra Juventus e Brescia, il Brescia era senza 4 titolari, poi è rimasto in 10 uomini, aveva perso dopo 5 minuti il secondo portiere, fatto debuttare il terzo, insomma ci sono mille ragioni per ritenere poco probante il test di oggi. Mi dite un giudizio sui primi 37 minuti della Juventus, cioè 11 contro 11 sullo 0-0, perché poi è successo tutto in pochi secondi, Carlo? Ma niente ingiudicabile la Juventus oggi, i primi 37 minuti fino al gol camminava, l'hanno detto tutti, quindi i dubbi rimangono, anche perché oggi sinceramente il povero Brescia non era un ostacolo probante per nulla. Pier? I dubbi rimangono, è un altro passaggio, non dico a vuoto, per carità, perché poi la cosa fondamentale per la Juve oggi era fare 3 punti e riprendersi momentaneamente la testa della classifica, però insomma è chiaro che la Juve migliore è lontanissima. Detto questo, non escludo che arriverà la Juve migliore, certo, quella che si è vista oggi è proprio neanche lontanissima parente, è proprio un'altra cosa, però insomma... Ci sono momenti nella storia di un campionato in cui è fondamentale semplicemente fare il risultato, perché il risultato è qualcosa utile per poi poter lavorare meglio e poter crescere. Sì, vi dico che il Lione, che tra un paio di settimane sarà avversario della Juventus nell'ottavo di finale di Champions League, non sta benissimo, non è andato oltre l'1-1 con lo Strasburgo. Poi ci proiettiamo su quello che accade questa sera in attesa delle parole di Sarri, ore 20.45 Lazio-Inter, che è stata preparata in maniera un po' pepata dai due allenatori. Allora vi faccio sentire prima Inzaghi sulla questione arbitri e su quel famoso Lazio-Inter che costò alla Lazio la qualificazione alla Champions League. Io penso che la Lazio, come è giusto che sia, in primis il suo allenatore, non abbia più parlato di arbitri, perché la Lazio è uscita quest'anno dall'Europa League per un rigore non dato sull'1-1 col Celtic, sacrosanto, e che è uscita a Napoli nella partita di Coppa Italia, dove ci sarebbe da recriminare per ore. 2 anni e mezzo fa sappiamo tutti come abbiamo perso la Champions per demeriti nostri e per fattori non ponderabili da parte nostra. Ha ancora il dente avvelenato su quella sera. Divertentissimo, come tutti dicono, non parliamo di arbitri e poi tutti parlano di arbitri. Tutti qualcosa dicono. Sì, tutti qualcosa dicono. Insomma, lasciamo stare gli arbitri. La lunga volata è già cominciata e sarà complicatissimo. Venerdì ne abbiamo avuto soltanto un assaggio. Però la partita che ci aspetta è meravigliosa sotto altri punti di vista calcistici. Sì, il migliore difesa a confronto, il secondo contro il terzo miglior attacco, quindi sono veramente due squadre che hanno numeri potenzialmente da scudetto, Pier, no? Anche stando fuori dai veleni. Sì, assolutamente. Sono è una sfida a scudetto, sono tre squadre che secondo me ci porteremo fino alla fine o comunque molto vicine a lottare per una sfida che sarà divertentissima. E in questo momento io credo appunto che la Lazio sia, numeri alla mano, la squadra più in forma. L'Inter però ha dimostrato di avere una capacità enorme di lotta, di sacrificio, di tenuta, ha dei colpi straordinari. Stasera sono molto curioso di vedere tatticamente come se la giocano, perché tutte e due anche potrebbero se gioca Eriksen più no che sì alle 17:12 del giorno di partita. No, ma in generale voglio capire chi lascerà il pallino, chi riuscirà a lasciare il pallino del gioco in mano all'altro, perché tutte e due hanno l'arma migliore nella ripartenza, quindi questo è molto interessante, molto divertente. Bisogno tutte e due di spazi. Anche una partita bloccata stasera. Ma insomma, tra Lazio e Inter dubito, perché molto spesso, soprattutto all'Olimpico, sono state belle partite, però tanto 800 24 00 24, se volete intervenire, oppure 349 238 6666, sms, whatsapp. Oggi il VAR ha lavorato molto, ve lo dico. 18:35 l'appuntamento con Luca Marelli, ma faremo anche la conta dei favorevoli e contrari al VAR a chiamata, quindi se volete prenotarvi 800 24 00 24. Vi faccio sentire invece Conte, che è parso fintamente tranquillo alla vigilia di Lazio-Inter, ma su una cosa ha avuto da eccepire. Diciamo che comunque l'Inter si presta molto alle vicende mercato, a differenza di altre società che vedo che comunque sono molto molto più abbottonate. Non ci sono tante notizie di mercato durante i periodi come questo. I giocatori rimangono concentrati, sono concentrati, sanno che comunque le cose, quello che fanno sul campo, sono le cose più importanti, il chiacchiericcio, il pourparler, conta zero. Allora, ce l'aveva sulle notizie a proposito di Lautaro Martinez, che sembra praticamente ceduto, se si leggono i giornali, soprattutto quelli spagnoli. E lui ha sempre un po' questa puntura sull'idea che l'ambiente Inter non sia in grado di sigillarsi durante la stagione, non sia ancora una piccola Juventus, ma anche un qualcosina. Guarda, a me sembra che sia un momento piuttosto tranquillo e che Conte non sappia più a che cosa aggrapparsi per creare qualche nemico. Può essere. 800 24 00 24, c'è Pierluigi Pardo, andiamo subito al traffico, poi aspettiamo le prime parole di Sarri dopo Juventus Brescia. Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24 800 24 00 24. Tutti convocati. Tutti convocati. Allora, eccoci qui, 800 24 00 24, arrivano un sacco di messaggi sulle assenze del Brescia, però insomma Brescia aveva degli infortunati e non hanno giocato per quella ragione fondamentalmente. Poi è chiaro che Diego Lopez fa anche delle riflessioni sul rischio di perderli per un periodo più lungo. Invece la Juventus perde Bonucci, che verrà squalificato per la trasferta di settimana prossima a Ferrara contro la SPAL. La Juventus ha ritrovato Chiellini, che ha rimesso i piedi in campo 170 giorni dopo l'infortunio al ginocchio destro, che lo ha di fatto fin qui tenuto fuori. E stanno andando proprio adesso le immagini di Chiellini che si abbraccia con Bonucci, prende la fascia da capitano, che poi è sua, è stata utilizzata in questi mesi da altri, ma è lui il capitano della Juventus, e rientra, ed è un rientro questo importante per la Juventus. Saluto Gianni De Biasi, ciao Gianni. Ciao, buonasera a tutti. Quanto conta ritrovare uno come Chiellini, al di là di quello che può dare dal punto di vista tecnico e tattico? Io credo che sia un giocatore di una grandissima mentalità di giocatore serio, motivatissimo, e che non si accontenta mai di quello che ha raggiunto, ma è sempre focalizzato sull'obiettivo futuro. Credo che sia molto importante per dare l'esempio anche ad altri giocatori che magari hanno grandissima qualità, ma magari difettano di questa costanza, di questa determinazione. Voto alla Juve oggi? Juve ha fatto più fatica di quanto non dica il risultato finale, perché il Brescia, secondo me, pur rimanendo in 10, è una squadra che ha mantenuto bene un'organizzazione in campo. Brescia, la Juve ha sbagliato qualche opportunità di troppo, però credo che tutto sommato si possa dire che il 2-0 sia un risultato buono e che la Juve abbia fatto una partita senza spendere tantissime energie. Vi faccio sentire le prime parole di Claudio Ranieri. Oggi la Sampdoria ha non giocato la partita, perché quando tu perdi 5-1 in casa in quel modo contro la Fiorentina è chiaro che sei autore di una prestazione assolutamente negativa. Ranieri a Sky. Sappiamo che ci saranno degli alti e bassi, come ci sono per noi, ci saranno anche per gli altri, e non dobbiamo mai mollare. Ma lei aveva detto: spero di trovare un po' di continuità dopo la vittoria di Torino per evitare questi alti e bassi. Ma cosa serve a questa Sampdoria per evitare questi alti e bassi? Cosa manca a questa squadra per evitarli? Un attimino più di determinazione, forse, ma soprattutto un pochettino, sembra sciocco dirlo, ma vista anche la partita di oggi, un pizzico di fortuna in più. Sì, spesso, partita insomma, piena di episodi, parlare di fortuna e di sfortuna su un 5-1 io credo non sia semplicissimo. È abbastanza complicato parlare di fortuna e di sfortuna, la partita è finita dopo un pugno di minuti, insomma, perché Fiorentina 1-2, pure la Sampdoria non ne ha avuto più. Qualcuno noterà anche come oggi alla Sampdoria sono stati dati due rigori, come la Sampdoria alla Fiorentina. Sì. La Sampdoria è rimasta in 10 presto, però tutti episodi credo poi vedremo, ma indiscutibili. Sì, li vedremo 18:35 con il nostro Luca Marelli in Var Anatomy. Vedremo anche l'entrata di Cuadrado, che sta facendo molto discutere, non sanzionato neanche con un cartellino giallo. Certamente era cartellino giallo come minimo, vedremo se può trattarsi anche di un rosso risparmiato a Cuadrado. Però torniamo sulla Juventus in campo. Allora, Pierluigi Pardo, detto che la Juve ha fatto più fatica di quanto ci si potesse attendere in questo testa coda contro il Brescia, secondo te Sarri esce più tranquillo da questa domenica? Beh, esce con tre punti, scusa la banalità, esce con tre punti che comunque non sono mai scontati in un momento come questo, in maniera particolare, comunque con un po' di turnover, perché il sacrificio di Cristiano Ronaldo non è un dettaglio, tanto per citare una situazione, una soluzione che sarà adottata in questa partita. Sì, esce secondo me rimpancato. Sì, anche se per battere il Brescia direi che Dybala e Higuain possono bastare. Possono, ma certamente. Senza evocare il turnover. Ragioniamo sulla mozione Klopp, no? Su quello che ha detto Klopp. Sì. Voglio dire, si può discutere sul valore della rosa della Juve. Anche io sono convinto dell'idea che la Juve abbia la potenzialità per fare di più di quello che ha fatto fino a questo momento in stagione. Quindi non so se 10 punti di vantaggio sulla seconda, come dice Klopp, o 4, 5 o 6, però sicuramente la Juve secondo me è un po' al di sotto, soprattutto nell'ultimo periodo, di quello che è il suo potenziale. Detto questo, i tre punti di oggi sono tre punti importanti, perché nessuna vittoria è scontata. Veramente nessuna vittoria scontata, anche se l'avversario era rimaneggiato, anche se era 10 contro 11, però insomma andava portata a casa questa partita, e adesso sicuramente ci sarà qualche giorno un pochino più sereno per poter lavorare in vista di Ferrara e poi tutto il resto. Chiellini è un grande recupero. Sono completamente del partito di Cassano, su altre cose non sono del tutto d'accordo con lui. Su Chiellini sposo la teoria al 100%, cioè Chiellini è il più forte di tutti. Senza se e senza ma, è il giocatore che dà equilibrio, che dà spirito, che dà personalità, è il miglior difensore della Juve. Bonucci ha altre qualità straordinarie in fase di impostazione, ma dal punto di vista difensivo Chiellini è un'altra cosa. De Ligt è un prospetto che sicuramente si farà ed è un investimento in prospettiva. Il Chiellini che conosciamo noi è un giocatore che cambia, che può cambiare la difesa, quindi a questo punto l'unica incognita è capire in che condizioni tornerà, ma è un grande recupero. È un grande recupero certamente. Gianni, però il tema è, al di là dei tre punti, della contabilità, che ieri Sarri aveva detto il momento difficile della Juve è finito a Verona. Io non so se oggi lui possa, non so che opinione ti sei fatto tu, insomma, possa ripresentarsi, lo sentiremo tra qualche istante, e dire, come vi avevo detto, le difficoltà adesso le abbiamo alle spalle. Ma sicuramente sicuramente dirà così, non che le avrà alle spalle, perché, ma che la Juve è stata sicuramente più spigliata del solito, ti ho detto, favorita probabilmente dall'espulsione molto veloce di un giocatore del Brescia, e per il resto sì, di Aie. E per quanto riguarda poi la Juve, forse secondo me può dare di più, come cantava un noto cantante, si può dare di più, anche perché la paura mia è quando esci dall'Italia e vai in Europa. Io lì è che ho delle perplessità, e mi auguro che la Juve possa ritrovarsi e poter recitare un ruolo diverso quando esce dai confini nazionali. Gianni, però da questo punto di vista, anche oggi si è notato, ne parlavamo prima di sbloccare la partita, una Juventus molto lenta, camminava quasi in alcuni suoi interpreti. Ora, facendo finta che il circoletto rosso sia stato messo al 26 di questo mese, quando andrà a Lione, è possibile che si stia lavorando sul versante fisico in modo da avere una Juventus più brillante quel giorno lì? Così rispondiamo anche a un amico che ha scritto: la Juve è in affaticamento, ma credo più fisico che mentale. Sì, me lo auguro anch'io che lo sia, e che sia speranza. Per un fatto di carichi di lavoro, ma credo che tutto sommato oggi come oggi siamo a febbraio e la Juve a me non ha mai entusiasmato, sinceramente, se devo dirla tutta. Mi aspettavo forse qualcosa di più, che incidesse molto di più il lavoro di Sarri nell'economia, poi di quanto si potesse vedere sul terreno di gioco, sviluppare trame diverse. È chiaro che una Juve che a tratti diverte, però io me l'aspettavo molto più continua, molto più bella da vedere, e anche molto più redditizia, perché poi non dimentichiamo, 7 giorni fa la Juventus ha perso a Verona, tanto per essere chiari. Quindi è un campanello d'allarme che può sicuramente suonare fastidioso, vista adesso l'impegno che fra 10 giorni avrà che arriva. Sì, alla Juve conviene un pareggio tra Lazio e Inter, oppure che una delle due vinca? Lo chiedo a tutti, parto da Pier. No, pareggio. Sono due squadre. Ma sai, secondo me fra le tre non c'è una gerarchia. Io penso che la Lazio in questo momento sia quella che sta meglio, e quindi se ti dovessi dire una favorita oggi ti direi Lazio. Però sono tre squadre, secondo me, sullo stesso livello, con caratteristiche diverse. Poi è ovvio che la Juve, dal punto di vista della rosa, ha qualcosa di più, ok. Però voglio dire, in questo momento, sommando i fattori, sommando i momenti, sono tre squadre veramente alla pari. Quindi secondo me alla Juve conviene assolutamente che stasera vengano distribuiti 2 punti invece che 3, ecco, tanto per essere chiari. Sicuramente non c'è dubbio pareggio, anche perché credo sarà un campionato, si deciderà su strettissime distanze, e quindi meglio essere primi piuttosto che da soli, piuttosto che a pari merito con qualcun altro. Gianni? Condivido perfettamente. Cioè, stiamo a fare questo ragionamento per cui alla Juventus conviene questa sera riuscire in qualche modo a speculare un punto in più, e io credo soprattutto a non battezzarsi l'antagonista, perché è chiaro che chi dovesse uscire questa sera con i 3 punti dall'Olimpico, per ovvie ragioni anche opposte, l'Inter in un senso, la Lazio nell'altro, guadagnerebbe ben più di 3 punti, no Gianni? Sì, è chiaro che anche a livello di convinzione. Sì, si candida come l'interlocutore primario per l'obiettivo finale, anche se tutto sommato mancano ancora 16 gare dopo quella di questa sera, e quindi credo che ci sia ancora spazio per poter 16, non so quante ne 14, mancano. 14, 14 dopo stasera, sì. 14, volevo allungare il campionato. E credo che tutto sommato ci sia comunque sempre margine anche per chi questa sera dovesse uscire sconfitto tra le due. Anch'io penso che magari il pareggio possa essere più interessante per la Juventus, perché un punto sembra meglio di 3 banalmente. Ma secondo te se la giocano a vincere stasera, o il pensiero di non perdere potrà condizionarle? Ah, io credo che sarà una partita molto bella dal punto di vista spettacolare. Al tempo stesso credo che entrambe proveranno a superarsi senza però rischiare più di tanto. 800 24 00 24, sempre aspettando Maurizio Sarri. Enzo Carbogna. Salve, allora io credo che sentiremo tutti Sarri, ma secondo me Sarri è già finito per la Juventus, perché c'è una mentalità di gioco che non è attuabile con la squadra che ha a disposizione, e quindi oggi lui ha fatto il tentativo come fece contro la Roma, che in pratica giocò senza Ronaldo, in modo da fare il 4-4-2 come faceva Allegri, perché si sta adeguando, perché sicuramente ha capito che i suoi giorni alla Juventus, la prima partita che sbaglia, viene mandato via, perché secondo me Sarri non è adatto per la Juventus, non è una squadra. O forse la Juventus che gli hanno dato, seppur di altissimo livello, non è completamente adatta al suo calcio. Ma io credo, chiedo a Gianni De Biasi, che insomma qualche panchina l'ha fatta, credo che per un allenatore riuscire a provare ad adeguarsi ai giocatori che ha sia un valore, non sia un limite. Sì, anche se aggiungiamo quanto diceva prima Gianni, non si vede ancora la Juventus di Sarri. Però torniamo al discorso della disponibilità dei giocatori, ne ha parlato lui stesso, ne ha parlato Buffon l'altro giorno dopo la partita con il Milan, devono essere così disponibili alla proposta che gli viene fatta. Sì, esattamente, io credo proprio che Sarri intanto sia una persona intelligente, che anche se ha delle condizioni di calcio collaudate nel tempo e che passano attraverso una gavetta lunghissima, credo che abbia bisogno di convincere un po' di più forse i mostri sacri della Juve, che lavorando in una certa maniera ne trarrebbero vantaggio tutti, perché credo che lui sappia insegnare calcio in una maniera ideale. Però non so se questo poi si sposa perfettamente con quella che è un po' la filosofia sia del club che di molti giocatori, che hanno già delle idee radicate in testa che difficilmente ti schiodi. Il cambiamento ti deve portare veramente un miglioramento straordinario, e tu devi saperlo vendere in una maniera straordinaria per fare in modo che ti possano servire. Va bene, grazie Gianni. Ciao Gianni. Grazie a voi. Grazie domenica. Gianni De Biasi. Intanto si fa attendere Maurizio Sarri. Vai Pier, poi do una notizia su Pjanic, che è uscito infortunato. Sì, dico, se posso dire all'amico di Carbonia, ammesso anche che Sarri sia sotto pressione, probabilmente lo è, io non credo che sia a rischio, e penso che qualsiasi allenatore a rischio, se sa di essere a rischio, non rinuncia a Cristiano Ronaldo. Quindi questa secondo me è una prova implicita del fatto che non è così a rischio, sta gestendo un momento delicato, e ovviamente non, le cose non stanno andando nell'ultimo periodo come i dirigenti della Juventus come si aspettava, sì. Ma credo lo stesso Sarri oggi, Chiellini, ha detto siamo tutti uniti, è il secondo senatore che parla dopo Buffon tre giorni fa, quando ha detto Sarri ci sta insegnando qualcosa di meraviglioso. A proposito di Pjanic, che oggi ha cominciato dalla panchina, poi è entrato e sette minuti dopo il suo ingresso in campo è stato costretto ad uscire per un problema agli adduttori, le sue condizioni saranno valutate nelle prossime ore. Però è chiaro che siamo entrati in quella fase della stagione in cui ogni piccolo campanello diventa un allarme, perché si avvicina il ritorno soprattutto della Champions League, e ricordiamo che poi il primo marzo c'è uno Juventus-Inter che non è proprio una passeggiata di salute. Ci fermiamo per un minuto e poi torniamo. Subito dopo l'intervallo la lotta continua. Tutti convocati. Tutti convocati. Restiamo sempre in attesa di Maurizio Sarri, che ancora non ha parlato. Vi do le formazioni ufficiali di Cagliari-Napoli. Comincia tra 25 minuti esatti e, come detto, è in questo weekend di grandi spareggi. Cominciato ieri con Atalanta-Roma, è una sorta di spareggio, vista la classifica che si sta creando tra chi può continuare a sperare nell'Europa League e chi invece deve fermarsi. Però mi fermo io con le formazioni ufficiali, perché al momento Maurizio Sarri, microfoni di Sky. Abbiamo fatto quello che dovevamo fare, abbiamo iniziato bene, poi abbiamo avuto 10 minuti di impasse, poi sbloccato il risultato nel loro 10, abbiamo avuto pazienza, abbiamo fatto girare la palla bene, l'abbiamo chiusa, abbiamo preso tre pali, quindi abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Oggi senza Ronaldo abbiamo visto un tridente atipico, no? Con inizialmente Dybala che partiva da sinistra, poi a un certo punto si sono scambiati con Quadrado e poi alla fine di fatto Dybala giocava a tutto campo. Le chiedo se questo tridente asimmetrico come doveva essere gestito, era così insomma che poi ognuno trovava la propria posizione? No, che Dybala aveva molta più libertà di movimenti sul fronte offensivo e in fase di ripiegamento Quadrado si doveva adeguare a quelle che erano le posizioni di Dybala. L'hanno fatto piuttosto bene. Le chiedo le sensazioni su Chiellini, rivederlo in campo oggi. Ma Chiellini praticamente si è messo da solo, me lo sono ritrovato accanto pronto per entrare e mi ha detto mister, tanto manca. Però era da ieri e diceva l'ultimo quarto d'ora, se siamo sul 2-0 devo giocare, devo giocare. È giusto, sì, ha fatto sei mesi di grandissimi sacrifici e ora per fortuna comincia a stare meglio, non è ancora prontissimo, però comincia a stare meglio e vicino. Io non vorrei sbagliare, ma è entrato sull'1-0, però non sul 2-0 Chiellini questo pomeriggio. Adesso verifichiamo, ma insomma, significa che aveva veramente voglia e insomma, fa sorridere sentirlo. Saluto Bortolo Muti, ciao Bortolo. Ciao. Ti è piaciuta oggi la Juve? Ha ragione Sarri quando dice abbiamo fatto quello che dovevamo fare, o chi, e sono tanti che stanno scrivendo, sono delusi, soprattutto per la prima mezz'ora, quella giocata 11 contro 11? Beh sì, ho seguito la partita e la svolta è stata l'espulsione e il gran gol su punizione di Dybala. Prima in quella mezz'ora si è vista un po' di confusione, ruoli invertiti, non mi ha convinto assolutamente contro un Brescia abbastanza, diciamo così, rinunciatario e più sulla difensiva, ecco, che sulla situazione di ripartenza. Però è chiaro, poi gli episodi ti indirizzano la partita e, come giustamente ho sentito dalle dichiarazioni, poi la Juve è andata in discesa, però è chiaro che i due episodi chiavi sono stata la grande punizione di Dybala e sì, l'espulsione, insomma, ecco. Prima, ecco, si era visto ben poco, ti devo dire. È successo dire, tutto in pochi secondi, però quasi normale che la Juve non stesse bene, lo sappiamo da un po', che quando giochi per rete così la parte fondamentale è sbloccarla e poi diventa difficilmente giudicabile la Juventus, perché Brescia aveva un sacco di assenze, perché gli infortuni pesano per tutti quanti, non solo per la Juve, e poi è rimasto in 10, quindi direi che non difficile trarre conclusioni. Sì, difficile parlarne. Mi dite chi gioca oggi il miglior calcio in Italia? Bortolo, Pier? Bortolo. Ma io scusa, per me in certi momenti assolutamente l'Atalanta. Un calcio che a me piace per la sua sfrontatezza, a volte paga il gol, deve recuperare. Però è un calcio tutto campo, sia nell'ampiezza, sia nell'aggredire, diciamo, l'avversario in certe situazioni. A me piace, diciamo, questa convinzione di fare la partita e di non aspettare, diciamo, gli eventi. Poi c'era il Cagliari, che onestamente non mi dispiaceva nel momento topico dove aveva fatto veramente... Si è un po' incartato. Adesso si è un po' incartato, si è un po' perso. Però ecco, la Juve non mi convince in questo momento, l'Inter a sprazzi, però è sul risultato, ci sono gli obiettivi, a volte gli obiettivi vanificano un po' il buon gioco, il bel gioco, che è un po' il tema che si rincorre sempre, meglio il risultato che diciamo il grande gioco. Che giocare bene. Pier, chi è che gioca meglio? No, io ti dico Atalanta prima sicuramente, sì. Lazio secondo se parliamo di spettacolo. E poi ci sono cose. Primo quarto d'ora di ieri dell'Atalanta nel secondo tempo è stato impressionante, non so se siete d'accordo. Sì, contro una Roma secondo me non dico guarita, perché secondo me i problemi sono tanti e si sono visti soprattutto dopo 2-1, è una squadra che ha pochissime soluzioni offensive a parte Dzeko, però sicuramente c'è stata una reazione rispetto alle due sconfitte precedenti. Ieri Roma ha fatto prestazione e l'Atalanta si è trovata sotto con un gol insomma anche abbastanza episodico, bravissimo Dzeko, ma tutto nasce dall'errore di Palomino sul retropassaggio di Atebur e poi a quel punto ennesimo test di forza anche mentale. Guarda, ci sono due dati secondo me molto impressionanti che riguardano l'Atalanta. Uno è il record europeo di punti recuperati da situazione di svantaggio, sì, che sono 19, sì, e sì, l'altro è il numero di gol di subentrati, che sono 12. Cioè il vero paradosso, o quantomeno insomma la cosa da sottolineare un pochino magari meno nota ai più, è che l'Atalanta ormai ha una rosa da grandissima squadra. Cioè quando ieri l'Atalanta fa entrare Muriel, fa entrare Malinovski, fa entrare Pazaric e la Roma, con tutto rispetto, fa entrare Villar e Carles Perez, c'è stato il sorpasso. Ma tutta la vita, a livello di potenzialità, l'infortunio di Zaniolo, l'infortunio di Avarà, sì, ci sono i momenti, quello che vuoi. Però voglio dirti, ormai l'Atalanta ha una rosa. L'Atalanta è impressionante. Beh, impressionante. Io credo che a questo punto non sia un caso, mi sbilancio, insomma, che l'Atalanta entri da favorita nel doppio confronto col Valencia. Non so cosa ne pensa Bortolo Muti. Sì, no, guarda. Sembra una bestemmia dirlo, Qualche tempo fa sì, ora però dici, per me è una grande realtà. Atalanta non teme il Valencia assolutamente. Cioè, per me c'è questa convinzione. Poi è chiaro, a livello internazionale più esperienza e tutto, però in questo momento per me l'Atalanta è una squadra molto temibile. Poi mister Pier prima ha detto due cose molto, molto interessanti. La prima, l'Atalanta è una rosa ormai di grande qualità, però siamo alla storia dell'uovo e della gallina, cioè dove sono grandi questi, dove lo sono diventati dentro all'Atalanta, prima cosa. La seconda, che impressione in una squadra di calcio in generale è la capacità di non subire tanto il colpo del gol preso. Si dice sempre, detto del grande Brasile, di squadre che ok, prendi il gol, metti la palla al centro, ma non ci fai tanto mentale. Caso, esatto, forza mentale. Ma dopo io dico un'altra cosa, tanto c'è un allenatore che non ha paura a fare certi cambi, cioè sotto di un gol, in una situazione, ha tolto il giocatore più di peso, più in quel momento che poteva magari risolvere, ha tolto Zapata, ha messo diciamo un centrocampista offensivo, ha alleggerito l'attacco e ha messo cioè, per me anche queste intuizioni fanno grande diciamo l'Atalanta, perché anche la libertà di poter sbagliare, perché intanto capita anche a Gasperi di sbagliare, i cambi di ruolo di Gomez, perché il Papu è una specie di cambio senza sostituzione. Il Papu sappiamo che può giocare da seconda punta, può giocare da trequartista, può arretrare, fa regista spesso, sì, in mezzo al campo. Io guardatevi la prima mezz'ora di Atalanta col Papu che gioca praticamente a metà campo, quasi da playmaker basso, perché Gasperini aveva capito che lì poteva fare ancora più male. Ieri l'ha spostato a sinistra, cioè scusa se ti interrompo, esco un po' da... invertiamo le panchine. Per me se Gasperini era sulla panchina della Roma, acquisito il vantaggio sulla fine del primo tempo, sapendo poi che davanti, di fronte è una squadra sempre, forse avrebbe preso Mancini, l'avrebbe messo in mezzo ai due difensori, avrebbe diciamo portato più schermo difensivo, sapendo che poi trovavi un Atalanta molto... Cioè, per me l'allenatore in questi momenti deve anche saper modulare, cambiare, in modo a volte anche inconsueto, certe strategie durante la gara. E questo Gasperini lo fa sempre. Ieri per me Fonseca forse non ha capito che il secondo tempo dell'Atalanta sarebbe stato molto pesante per la Roma da sopportare. E forse queste intuizioni fanno un po' anche la differenza in certi momenti. Il male della Roma qual è, Bortolo? Poi abbiamo il traffico e ti saluto. Ma guarda, sicuramente... una rosa ristretta, certi infortuni pesantissimi in un momento dove certi equilibri erano stati acquisiti e erano state trovate delle certezze. E usciti questi due ragazzi così, la squadra si è un po' smarrita. Adesso è in difficoltà, ma un po' anche fisicamente per me è un po' in difficoltà, perché è una squadra un po' sul legame. E c'è da lavorare, adesso è importante proprio anche il lavoro del suo allenatore. Sì, però è stato il quarto posto, rischia di allontanarsi, sono sei punti e l'Atalanta al vantaggio di aver vinto tutti e due gli scontri diretti, quindi sono di fatto sette punti. È vero che mancano 14 giornate, ma insomma l'Atalanta non dà il segno di essere minimamente vicina a una flessione. Grazie Bortolo. Guarda Giovanni, se tu guardi il percorso l'anno scorso, l'Atalanta è stata sempre in crescendo. Sì. Per cui andrà avanti su questa strada, farà meno, diciamo, come dire, sicuramente non avrà delle flessioni, perché anche, come abbiamo detto prima, ha dei grandi cambi, queste situazioni sicuramente ti aiutano tantissimo. Sì, la sensazione è che i primi quattro posti, cioè il contingente italiano che va in Champions l'anno prossimo, siano in un certo senso sigillati. Juventus, Inter, Lazio, metteteli voi nell'ordine, o aspettiamo il 24 maggio quando finisce il campionato, e poi la quarta è l'Atalanta, si gioca per il quinto, sesto posto, però abbiamo ancora 14 giornate, vediamo. Grazie a Bortolo Mutti, ciao, alla prossima. Ciao, buonasera. Preparate questa risposta, Pier, adesso parliamo del Napoli, ma chiede un amico: Atalanta, Juve, Napoli, chi va ai quarti? Traffico, torniamo subito. I love this game. Tutti convocati. Tutti convocati. Cala non è convocato perché non si è allenato come piace a me. fatto delle gran camminate ed è giusto che sta a casa. Non si è allenato come voglio io e se ne sta a casa. Domani un altro giorno, non si porterà ancora. E domani, quando ritorneremo dalla trasferta, prepariamo la partita di Brescia. E se si allena, come dico io, verrà convocato. Se no, rimarrà a casa ancora. Questo Gattuso, che si è preso definitivamente il Napoli, saluto Enrico Fedele. Ciao Enrico. Ciao. Allora, formazioni ufficiali, ve le avevo promesse, eccole: Cagliari 4-3-2-1, Cragno in porta, la linea difensiva a 4 con Luca Pellegrini e Pisacane esterni, Klavan e Valukiewicz centrali, a centrocampo Nandez, Cigarini, Ionita, il centravanti è Simeone con alle spalle Pereiro e Joao Pedro. Attenzione alla formazione del Napoli, perché abbiamo sentito Gattuso far fuori Allan ieri, non convocato perché ha camminato in allenamento. E nella formazione del Napoli c'è una sorpresa, almeno personalmente la ritengo tale: Ospina in porta, Di Lorenzo, Manolas, Maximovic e Isai sulla linea difensiva, Fabian Ruiz, Demme, Zielinski a centrocampo, Calleon, Mertens ed Elmas in attacco, con Insigne che si siede in panchina. Enrico Fedele. No, io non lo... perché potrebbe essere strana. Invece se stiamo attenti a tutto ciò che ha detto Gattuso, ha detto: io cercavo di giocare in un certo modo, voleva fare il 4-3-3 soprattutto nella fase di possesso, ma ha visto che non lo posso fare, e quindi lui ha riproposto una formazione, tranne Isai, Mario Luiz, quindi più abbottonata, nel quale il Napoli gioca con un 4-1-4-1, 4-5-1, ma soprattutto con un esterno che faccia la catena di sinistra, che sia un centrocampista, che è il massimo. Quindi una squadra molto più abbottonata, una squadra che manda in soffitto il 4-3-3, anche se poi io dico, però è stata fatta per un 4-3-3, anche l'acquisto di Politano, ma comunque se lui arriva. Se lui ha ritenuto, e io sono d'accordo con lui, ha ritenuto che questa squadra qua ha bisogno di altri equilibri. È brava nella fase di offesa, non brava nella fase di possesso, di diciamo così, di recupero palla, e si copre di più. Io sono d'accordo. Però Pier, allora, tatticamente possiamo essere d'accordo. Poi giustamente Enrico Fedele fa notare, gli hanno preso Politano a gennaio, quindi continuano a costruire una squadra per il 4-3-3. Io faccio sommessamente notare che Insigne il capitano non so che tempo si debba usare il capitano. Sì, c'è secondo me anche una completa inversione delle priorità in casa Napoli, nel senso che il campionato è diventato in questo momento, numeri alla mano, la cosa meno importante. Il Napoli ha dimostrato di saper giocare ancora bene le grandi partite, ha fatto risultato a San Siro, ha una grande sfida col Barcellona, e torno in qualche modo anche alla domanda che mi faceva l'ascoltatore. Atalanta, Juve, Napoli, chi va avanti in Champions? Nessuno dei tre? Nessuna delle tre è scontata, ti direi Atalanta e Juve. Per me Atalanta e Juve oggi sono le favorite. La Juve comunque, insomma, è largamente favorita. Il Napoli no, anche se il Barcellona è convalescente. Il Napoli no, perché ha il Barcellona davanti. Non per colpa del Napoli, ma il Napoli, a differenza di quello che si poteva pensare un mese e mezzo fa, arriva a questa sfida un po' perché ha ritrovato qualche certezza, un po' perché il Barcellona ha perso delle certezze, arriva con la possibilità di poterci provare. Un po' più non è una sfida chiusa, anche perché il Barcellona nel recente passato in Europa ha fatto anche dei discreti disastri, quindi puntiamo al triplete. Una bella spolverata di ottimismo. L'ottimismo è tutto. Enrico Fedele, ma Gattuso sta facendo delle lunghe prove per quella doppia sfida col Barcellona, cioè mi viene in mente una squadra con 4-5-1 possa anche essere questa. Io anche per diciamo cultura professionale e anche per fede azzurra ho guardato molto il Barcellona. Il Barcellona, sai che idea mi dà di una squadra che mi sembra come se fosse, che se noi dovessimo affrontare questa squadra, che il Napoli è il Napoli di Sarri e il Barcellona è il Barcellona di Guardiola. In realtà sono due Barcelloni, è un Barcellona totalmente diverso, che si appoggia sempre a Messi, perché se sta lui le partite ricordatevi che sono sempre i confetti che fanno le bomboniere, certo. sono sempre i giocatori che i confetti sarebbero le giocate di Messi, I confetti fanno le bomboniere, i confetti rimandano la pelata di Avola calibrata, noi confetti di nocciola normale, quello che si vendono qua sulle bancarelle, sono quelli che hai voglia di fare i 4-1, 5-7, 67-48, sia ben chiaro. Però il Napoli con questa nuova mentalità di Gattuso, il quale ha detto io non fa, ma lo stesso Koulibaly, Koulibaly messo da parte, Meret messo da poco da parte, Insigne messo un po' da parte, Politano messo un po' da parte, chi lavora gioca. E il Napoli operaio, io non sono d'accordo, guarda, sarò che io ho qualche anno in più di voi, così per farmi bello, per avere più di qualcuno, e faccio parte di un altro calcio. Il Napoli, quando parlo di gioco all'italiana, io parlano in una maniera disfattista di catenaccio, ma non hanno capito che il catenaccio, no, esisteva una volta quando si buttava la palla fuori. Oggi il catenaccio significa rompere le linee di passaggio, fare delle catene in modo da non essere colpiti, giocare organizzati, giocare organizzati. Sì, però il problema è che a Napoli avete gli occhi ancora pieni del calcio di Sarri. No, loro, no. Ma vedi, loro. Sarri, tu no, però gli altri sì. Io non sono un grande estimatore di Sarri, perché lo reputavo un grande allenatore fino al sabato. La domenica, per la sua testardaggine, ci ha fatto perdere qualche scudetto in più. Però è l'unico allenatore in Italia che è passato per sarrismo non avendo vinto nulla in Italia. Gli altri hanno vinto. Allora dico, scusatemi, andiamo piano piano. Diamo meriti a chi ha conquistato. Allegrismo non l'ho mai sentito. Com'è sto fatto? È che probabilmente ruba meno l'occhio rispetto al sarrismo. Ma non vinci, vai a pigliarlo al manacco. Ma non è di moda, Enrico, no, dai, qui si torna. Allora ricordate pure Zemallandia. Amici cari, lo dico anche al mio caro amico Pier. Il bello è un complemento del calcio. Ma non c'è dubbio. La ciccia però, quell'altra. Però abbiamo un minuto, Pier, vai. Sì, il meccanismo mediatico è semplicissimo. Il fatto che Sarri comunque ha fatto cose importanti e anche al Chelsea comunque ha vinto, però se pensi a Zemallandia, voglio dire, bravo. Eppure, Zemallandia e a Napoli si scordano di Vinicius, che con mezzi giocatori, giocatori delle età tue e delle età mie, come Bulli, Ciorlandini, Esposito, Massa, Buonanima, Braglia, Clerici. Abbiamo perso lo scudetto del 75 per il cuore in grado di Altafini agli ultimi 3 minuti. Facciamo i bravi in Italia con il risultato. Non c'è dubbio. Qui si torna al teorema del gabbione di Allegri. Allora, vi devo salutare perché c'è il GR. Ringrazio Enrico Fedeli. Ciao Enrico, grazie, alla prossima. Ciao ragazzi. A tutti. Ringrazio anche te, Pier. A domani. Ciao, dopo il GR delle 14, un minuto, il GR delle 18, torniamo. Siete tutti convocati anche sui social. Anche sui social. Scriveteci a @tutticonvocati su Twitter o cercate la nostra pagina Tutti Convocati Radio 24 su Facebook. Tutti convocati. Un luogo comune è un'opinione o un concetto la cui diffusione... Un po' di... meno impostato, un po' di emozione. Ma sì, un po' di brio, dai. La cui diffusione, ricorrenza o familiarità... E che cos'è? Vabbè, non sei credibile, cos'è il Carnevale di Rio? Ne determinano l'ovvietà o l'immediata riconoscibilità. Senti, teatro qua, tutto profondo, no. Basta questa cosa che il teatro è noioso, È un luogo comune. In letteratura è detto topos e indica il ricorrere di un tema in un autore o in un genere letterario o artistico. Vabbè, non t'arrabbiare. Off topic, fuori dai luoghi comuni. Il sabato alle 22:30 e la domenica alle 14 su Radio 24. Tutti convocati. Che è ormai una realtà, si stanno imponendo anche a livello di trofei. Una Lazio che è cresciuta tanto in questi anni, mantenendo sempre i giocatori più forti, e non ultimo c'è sicuramente l'ottimo lavoro che sta facendo Simone Inzaghi. C'è stato uno sviluppo del suo lavoro negli anni. Sappiamo bene da dove siamo partiti, da dove arriviamo, quanto abbiamo lavorato, ci troviamo in questa posizione di classifica perché l'abbiamo meritato. Non abbiamo l'ossessione di questa posizione, ma noi sappiamo bene in testa nostra qual era l'obiettivo di inizio stagione, di quello che lavoriamo da 4 anni a questa parte. Penso che sia una partita tra due outsider nel campionato italiano. Bel effetto, diciamo che è una partita scudetto perché la classifica dice questo, affronteremo un avversario molto forte, molto determinato, ma io penso che sia una partita molto molto importante ma non decisiva. Mancheranno 14 partite, chiaramente ti darebbe una grandissima spinta in più vincere una partita del genere. Sfida tra outsider del campionato, carissimo Carlo, mi sembra un po' riduttivo, Sì, molto Lazio riduttivo. Inter di questa sera ore 20:45 all'Olimpico. Sfida tra una delle tre superpotenze tutta la settimana, che penso a questa partita che sarà, cioè, è la partita più eccitante che vista fin qui in campionato. Poi magari si risolve col trionfo della paura, però lasciami pensare che sarà una grande gara. Sì, lo immagino anch'io, non so come lo immagina Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport. Ciao Ivan. No, sono sorpreso dal fatto che si esciti ancora, Carlo Gente. Beh, ma sai, l'età, ci sono. Dopo, diciamo stare. Dopo mandami l'Iban, Dopo ti mando l'Iban. Per i tuoi interventi. No, però vedi come uno cerca sempre di far capire di avere una squadra non all'altezza, e l'altro invece dice abbiamo fatto un lavoro da 4 anni a questa parte, abbiamo un obiettivo molto chiaro che è evidentemente la zona Champions. Però sì, sono le outsider, dai, sono comunque le outsider, nessuno di noi dava la Lazio l'Inter vincente, almeno io no, lo scudetto, la Juve fa il possibile per rendere più divertente questo campionato, perché è la Juve che sta andando piano. Sì, che poi è un piano relativo, perché punta sempre come proiezione a 90 punti, quindi... È un piano relativo, però la settimana scorsa erano 9 punti in meno rispetto allo scorso anno, quindi insomma, è un piano per la Juventus, è un piano assoluto, è un piano relativo per le altre. Chiaro che se punti a 90 punti, con la squadra che ha, poi anche oggi ha giochicchiato, cioè contro il pullman di Diego Lopez, ma alla fine... Poverelli, cosa devono fare? Cioè, ma no, già ma Cavaglione si è fatto male Alfonso, è entrato uno che ha fatto anche un paio di parate. Però rivedibile sulla punizione, diciamo la verità, bella di Dybala, ma è sul palo del portiere. Che devono fare? Ma lì, sì, hai ragione, lì però è un rigore, quando c'è Dybala in quella posizione centrale così è quasi un rigore. Sì, comunque io Cassano e altri 4 pazzi giochiamo sull'Inter dall'inizio della stagione. La Lazio no, sinceramente, ma adesso bisogna dire, anche Conte dovrebbe ammettere che comunque l'Inter adesso è attrezzata, è una grande squadra, non possiamo discutere se a livello della Juve no, ma è una grande squadra. Vabbè, no, va bene, il silenzio fa più delle parole. Una grande squadra secondo me gioca meglio, detto francamente. È una squadra che vuole diventare grande, che ha tutto per diventare grande, mancano ancora delle cose, è un'ottima difesa. Il portiere adesso andare invece non c'è, a centrocampo secondo me ha fatto meglio. E davanti ha uno dei migliori attaccanti del campionato che è Lautaro, e poi Lukaku che obiettivamente fa dello spolvero, cioè fa veramente un giocatore che è di grandissima presenza, ogni tanto la butta dentro, quindi sì, io credo sinceramente che la Juve abbia di più, poi che non lo stia sfruttando al meglio, questo è un altro tipo di discorso. La Lazio ha un centrocampo fortissimo, è Immobile, e dietro è sicuramente inferiore alle altre due. Conte ti potrebbe dire, secondo me anche ha ragione, che per giocare meglio, giocare come la Lazio, gli mancano 3 anni e mezzo di lavoro. Vabbè. Sì, sì, questo è il dubbio che è arrivato, però lui sai che vinse dopo 2 settimane posto della Juventus, chiaro che era la Juventus. Qui hanno fatto investimenti, ha richiesto giocatori, ha cambiato, ha portato, ha aggiunto Moses, Oshley Young, Eriksen, che anche oggi credo che non giochi, ma ha avuto Lukaku, ha avuto Barella, Sensi, Godin che gioca poco, appunto, ha lanciato Bastoni. Ha fatto una bella lista della spesa, ecco. Poi magari non è ancora contento del tutto. Dov'è? Aspetta che abbiamo perso Ivan Zazzaroni adesso. Magari non è ancora contento del tutto, ma è normale che sia così. è anche giusto che sia così, perché deve comunque far privilegiare il suo lavoro. Questo è dato di fatto, è sempre stato così, Antonio. Comunque Ivan, la situazione non è molto diversa rispetto al primo campionato che vinse con la Juventus. Il Milan di Ibra era più forte di quella di quella Juventus, andò a strappargli lo scudetto dal petto. La situazione non è molto diversa. A proposito di allenatori, vi faccio una domanda secca: si votasse in questo momento la panchina d'oro per questa stagione, Inzaghi la meriterebbe? No, io la darei di nuovo a Gasperini, però Inzaghi, perché fa qualcosa di diverso, però Inzaghi arriverebbe sicuramente secondo. Però far pensare ai tifosi della Lazio e a tutti noi che la Lazio possa vincere lo scudetto a due terzi di stagione è qualcosa di grande, Di grandissimo, no, ma guarda che obiettivamente io mi sorprendevo quando non entrava nelle quattro, perché comunque è una squadra che, se ci pensi bene, in condizioni diciamo di sfruttamento del potenziale, ha dei bei giocatori. Poi è chiaro che dietro, cioè, Acerbi oggi è il miglior difensore del campionato, i centrocampisti, l'ho detto, Luis Alberto è in una condizione di giocatore straordinario. Ecco, Milinkovic quando c'è si sente, Lulic adesso è assente, purtroppo era Lazio, Leiva in grande condizione, cioè Lazzari è l'uomo che mancava, e davanti trovi anche i gol di Caicedo, hai la cosa di Correa che adesso sta rientrando, Immobile che ha fatto 25 gol, quindi è una squadra comunque per il campionato, questo è indubbio. Se avesse qualcosina di più dietro e se lo Tito avesse fatto uno sforzettino a gennaio, forse avrebbe più soluzioni. Sì, sarebbe un po' più completa. Abbiamo un minuto di traffico. Se non ha altro da fare e ci regala ancora qualcosa, mi tengo Ivan Zazzaroni, che oggi ho letto con grande interesse sul Corriere dello Sport, e lo voglio stuzzicare, sulla Roma e su Guardiola, perché ha scritto una cosa su Guardiola che non ho letto da nessun'altra parte, ma non ve l'anticipo perché la ripercorriamo insieme tra un minuto. Intanto siamo al quarto d'ora a Cagliari, 0-0 tra Cagliari e Napoli. Napoli che ha cominciato bene, poi partita che si è abbastanza equilibrata, tifosi del Cagliari che contestano la squadra di Maran, non c'è un bel ambiente in questo momento a Cagliari. Vi do anche l'aggiornamento della finale di Coppa Italia, siamo in chiusura di primo quarto, mancano 1 minuto e 55 secondi. Venezia è partita col botto, 15-4 su Brindisi, 1 minuto e 55 alla fine del primo quarto. Un minuto traffico, torniamo subito. Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24 800 24 00 24. Tutti convocati. È vero che non siamo in un momento positivo, ma una squadra che ha dimostrato che può fare molto meglio, ha fatto molto meglio. Io devo essere il primo a credere che è possibile cambiare questo momento negativo. Allora, questo è un Fonseca abbastanza depresso. Ieri ha perso la terza partita consecutiva, credo la quinta dall'inizio del 2020. Oggi Ivan Zazzaroni, editoriale sul Corriere dello Sport, ha scritto che il problema della Roma è che in questa fase è dissociata a tutti i livelli. Ivan, qual è il male? Ma manca la società, cioè, come ho scritto, come pensano tutti, cioè, io ho visto delle grandi società con piccole squadre, cioè delle stagioni in cui il Milan per esempio, no? È sempre stata una grande società, ha avuto degli anni sfortunati, ma non ho mai visto piccole società con grandi squadre. Quindi qui manca la società nettamente, manca il sostegno, cioè voglio dire anche Fienga ha scelto, parlo di Fienga perché è il suo delegato di quest'anno, ha scelto uno come Petrachi, poi improvvisamente vediamo che si dissocia, hanno lasciato a lui, dalle sue parole evidentemente, parole che peraltro non sono degne di uno che lavora nella Roma, in un grande club, ma anche in un medio club, in un piccolo club, perché le critiche devi saperle assorbire e poi se hai qualcosa da dire lo dici in maniera diversa evidentemente, però usare certi termini francamente mi sembra fuori luogo, ma soprattutto una questione di maleducazione. Ma al di là di questo è chiaro che a Roma sei sotto il mirino di tanti, radio, di televisioni, e quando mancano i risultati, manca i risultati, per cui non puoi pensare, cioè io ho fatto un conto della Serva, 2 punti in meno del peggior di Francesco dello scorso anno, 2 punti in meno, cioè è una roba impressionante, e di Francesco era agli ottavi di Coppa dei Campioni. Solo che Fonseca credo sia l'ultimo dei responsabili, mentre quei 2 punti in meno poi si ragionò e si arrivò alle zone di Francesco. Ma sai Giovanni, l'ultimo dei responsabili, io credo che se un allenatore ha il rispetto di chi lo segue, lui è il primo responsabile. Perché voglio dire, quando va bene è il fenomeno, quando va male cos'è? Colpa degli altri. Ma però a gennaio gli hanno consegnato un altro plotone di ragazzi da sgrezzare. Però, scusami Giovanni, però se tu sei allenatore di una grande società devi dire: guardate, a me dei ragazzi non me ne frega assolutamente nulla, cioè io ho bisogno di questo, questo e questo, se possiamo prenderlo bene. Ma se a, chi non dici, prenderlo... A chi lo dici? Al tuo direttore sportivo. Sta cambiando proprietario, c'è Petracchi che fa tutti i ruoli possibili, compreso un tentativo di fare allenatore o sì, ma infatti io non capisco questo, cioè qui stiamo lavorando, è la società dissociata di cui parlavi, lavora per il futuro uno che non sa se farà parte del futuro, e va bene, è serio questo punto di vista, cioè tu investi diciamo per un futuro che, al quale magari non appartieni nemmeno, no? Non appartieni nemmeno, sei aziendalista, in questo arriva uno nuovo, sì, però non puoi dire io non posso prendere un giocatore di 60 milioni, con 60 milioni ne prendo 7, sei alla Roma. Sì, sì. Allora devi, cioè, o fai come Sabatini, e ho fatto il calcolo degli ultimi di 10 giocatori, ha preso 10 giocatori, uno più bravo dell'altro, e li ha rivenduti per 300 milioni. E sono tutti conti, 300 milioni. Quindi voglio dire, questo almeno prendeva i giocatori che riusciva a rivendere anche dopo un anno, Alisson, Salah, quante ne abbiamo messe dentro? Cosa che nelle ultime stagioni non è più successa alla Roma, non ci sono più riusciti. Hanno esaurito il bonus, cioè non ce n'erano più di buoni, era rimasto Dzeko, gli danno 7 milioni all'anno perché avevano paura di perdere anche quello, e chissà cosa sarebbe successo. Ma al di là di questo, io credo il quadro ormai è molto chiaro, è una squadra in grandissime difficoltà, spero che riesca in qualche modo a riprendersi. Mi sembra distante, notevolmente distante dal discorso della Champions. Tu pensa che nelle prime partite, cioè fino a prima di Natale era 2,05 di media punti, adesso siamo a 0,57. Sì, sì. Chiaramente la crisi di gennaio questa volta, e non solo, ha colpito la Roma e non l'Inter, che era tradizionalmente abbonata alla crisi di gennaio. Tanto 21esimo minuto, Cagliari 0, Napoli 0. Dove va Guardiola? Ivan Zazzaroni. Ma Guardiola sta lì. C'è tutta Europa che dice che va via, per questo mi ha molto colpito leggere Guardiola sta lì. Ricordi, io non voglio dire niente, ti ricordi l'estate? Io fui l'unico con Gianluca Di Marzio a sostenere che la Juve non avesse mai neanche cercato Guardiola, neanche cercato, perché parlavo con suo fratello agente, perché parlavo, cioè riuscivo a avere delle informazioni, abbiamo parlato con quelli del board del City, neanche cercato. Erano andati su Sarri, benissimo, però per tutti andava Guardiola, andava alla Juventus, benissimo. Guardiola, se lo conosci, è uno che non lascia la società quando è in grande difficoltà, proprio una questione di principi, di valori suoi. Oltretutto ha creato una società a sua misura, a sua immagine e somiglianza. Parlano catalano al City, se voi andate al City non parlano inglese, parlano catalano. Per cui lui, secondo te, perché adesso vedremo poi quando andrà a finire, sarà il ricorso al TAS e tutto il resto, magari arriveranno l'anno dopo naturalmente alla squalifica della Champions, vedremo quello che accadrà, ma non è il tipo che abbandona, come ho detto alla fine, guarda, se abbandona il City in difficoltà e tutta la gente che l'ha portato e il resto, deve fare i conti con la sua coscienza, cioè la sua coscienza è la prima a essere sorpresa, perché non è da Guardiola. Sì, no, non sarebbe da Guardiola. Argomentazione interessante che mettiamo lì, perché nelle prossime settimane, nei prossimi mesi di Guardiola si parlerà tanto, fatalmente vedremo anche come andrà a finire il ricorso al TAS, perché anche la vicenda dell'esclusione per due stagioni dalla Champions League non è una vicenda in questo momento chiusa. Grazie a Ivan Zazzaroni. Grazie a voi. Ciao direttore. Grazie Ivan. 0-0 Cagliari-Napoli, con il Napoli che sta cercando di mettere pressione, siamo a metà del primo tempo, partita però che fin qui non ha prodotto grandissime occasioni e che continueremo a seguire fino alle 19. Saluto Ciccio Colonnese, ciao Ciccio. Buonasera a voi. Buonasera a te. Ci proiettiamo ancora su Lazio-Inter, ore 20:45, Stadio Olimpico. Le tue sensazioni? Grande equilibrio, due squadre in ottima salute entrambi, quindi giocano nella stessa maniera, hanno qualità davanti e in mezzo al campo, e quindi sarà una partita molto equilibrata. Chi ha la difesa migliore? La difesa migliore ci fosse stato Andano e ci dicevo l'Inter. Adesso forse si equivalgono, attualmente si equivalgono. Sì, si tratterà di capire e di aspettare il primo gol per sbloccare questa partita, poi potrebbe davvero diventare meravigliosa, Ciccio. Queste partite sono sempre così. No, se la sblocchi poi ci saranno tanti duelli individuali sugli esterni, in mezzo al campo, cioè, insomma, sarà una partita dove due squadre si rispettano molto e sanno entrambi di essere, diciamo, una e l'altra, insomma, giocarsi tanto, e quindi insomma, ci sarà grande rispetto, però sarà bella perché insomma in mezzo al campo c'è tanta qualità, Luis Alberto, Milinkovic da una parte, Brozovic e forse la Lazio ha più qualità e l'Inter ha più fisicità. Perché forse insomma tutti noi e dall'esterno insomma, vogliamo vedere questo calciatore che abbiamo così apprezzato al Tottenham. Sarebbe bello un giorno che Conte riesce a trovare la giusta dimensione, come ha fatto Inzaghi nella Lazio, di riuscire a trovare l'equilibrio giusto inserendo tanti giocatori di qualità, perché insomma la Lazio aveva queste problematiche e poi è riuscita a giocare con tre giocatori di qualità in mezzo al campo. Certo, ma è così difficile inserire un giocatore cui tutti riconoscono una qualità, un talento superiore, come Eriksen in questo caso? È difficile, insomma, non lo so perché insomma adesso è difficile giudicare dal di fuori, però insomma lui ha sempre giocato dal di fuori, sembra tanto talento. Il gioco di Conte è un gioco diverso, dove c'è tanta fisicità, il talento deve essere messo al servizio della squadra, ma non c'è, insomma, quindi il talento puro insomma, non ce n'è, c'è necessità tecnica, ma soprattutto grandi dettami tattici, quindi forse per questo insomma si fa fatica a vedere Eriksen, oppure Conte non pensa che in questo momento Eriksen non è ancora pronto per entrare nel suo modo di giocare a calcio, forse questo, perché lui è un allenatore che cerca tanta pressione, tanta corsa, e quindi giocatori di talento, queste caratteristiche insomma non è che ce l'abbiano tanto, e quindi forse per questo motivo fa un po' fatica ad adattarsi Eriksen. Sì, anche se è un giocatore che insomma io sono d'accordo con Giovanni, ne parlavamo l'altro giorno quando abbiamo registrato il video, no Giovanni? Secondo me questa è una partita che se sei una grande squadra e vuoi andare a sfidare la Juventus devi essere molto coraggioso e devi puntare a vincere. Questo vale sia per la Lazio che per l'Inter, vale per entrambe. È per quello che diciamo è ovvio. Ti aspetti di vedere in campo tutta la qualità che puoi mettere. Eh sì, per provare a vincerla da tutte e due le parti, perché se vinci, allora sì che la Juventus non passa una bella domenica nonostante la vittoria. Ciccio, tra Lukaku, Lautaro e Immobile metti tu il partner, Correa o Caicedo, chi ti prendi? Mi prendo questi due primi, Lukaku, Lautaro. Lukaku, Lautaro sono forti, si compensano bene, quindi sono un po' più temibili perché hanno entrambi caratteristiche difficilissime da marcare, insomma, e allora questi due li apprezzo un po', insomma, apprezzo il centrocampo della, se devo fare un paragone, dico la Lazio apprezzo il centrocampo, ma del Inter apprezzo l'attacco. E se fosse stata l'Inter al completo prendevo tutta la vita all'Inter, anche la difesa. Invece così c'è tanto equilibrio. Anche se Padelli qualche segnale l'ha mostrato in Coppa Italia di risveglio dopo un derby difficile. Sicuramente è un portiere normale che sta facendo bene, quello è un campione, quello è un giocatore che insomma ti arriva una palla e ha sotto l'incrocio tra la sala, sono quei portieri che a fine anno ti fanno avere 4-5 punti in più onestamente. Sì, certo, il paragone con Handanovic è improprio per Padelli e lo sarebbe probabilmente per qualsiasi altro numero 12, certo, della Serie A. Sì, infatti. Credo ci sia l'eccezione alla Juventus, dove il 12 è Buffon, e quindi pur avendo l'età che ha una qualità e un'esperienza che lo rendono assolutamente funzionale. Grazie Ciccio. Ciao. Grazie a voi. Grazie a Ciccio Colonnese. 28 minuti appena trascorsi sul cronometro di Cagliari-Napoli, risultato 0-0. Diamo anche l'aggiornamento della finale di Coppa Italia di basket. Siamo nel secondo quarto, che è cominciato da un minuto. Venezia avanti in sicurezza 21-9, con 8 punti di Tonut, che è il grande mattatore di questa prima parte della finale. Brindisi sta tirando con delle medie drammatiche, il 27% da 2 e 0 su 7 da 3. Ma Venezia sta difendendo duro. Da Venezia trae un insegnamento. Venezia campione d'Italia, sta giocando una stagione in campionato difficilissima, però quando comincia a contare finale di Coppa Italia dopo aver battuto Milano, adesso è in vantaggio, sta giocando da grande squadra. Fai un parallelo con la Juventus e vediamo cosa ne esce. Poi nei prossimi giorni convochiamo gli stati generali per capire perché Milano si incarta con le sue mani. Oh, guarda, questo non lo so. Non ho una risposta, però. Sì. Sensazione ieri che non ce l'abbia neanche Messina in questo momento. No, fa fatica anche Messina, e a questo punto vale tutto e vale ogni dubbio, ogni pensiero, compresi quelli relativi a Ciaccio Rodriguez, a Scola, che sono le due grandi stelle del mercato. Però qualcuno comincia a domandarsi: ma al di là degli highlights, valeva veramente la pena puntare tutto su di loro? Allora, ci fermiamo un minuto. Quando torniamo a VAR Anatomy, così placchiamo anche la vostra sete di sapere se Cuadrado andava espulso nei primi minuti del primo tempo di Juventus Brescia, poi terminata 0-0, e torniamo anche sulla questione del VAR a chiamata, che mi pare non abbia raccolto grandi consensi tra gli addetti ai lavori. Un minuto, torniamo. Bene, allora siamo tutti convocati. Ma proprio tutti. Tutti convocati. Convocati. VAR Anatomy con Luca Marelli. L'allenatore fa l'allenatore, l'arbitro deve fare l'arbitro e cercare di farlo il meglio possibile. A me non piace, sinceramente. Io, a me il VAR mi piace, ho sempre adesso favorevole al VAR. Penso che l'arbitro deve parlare a fine partita. È un professionista, finisce la partita e lo dice l'arbitro quello che ha visto. Dovrebbe già essere tutto monitorato, cioè non ci dovrebbe neanche essere bisogno della chiamata dell'uno o dell'altro allenatore. Io non sono d'accordo. Ogni squadra si attrezza ad avere una VAR personale che ti informa l'allenatore, che poi va a chiamare l'arbitro. Cioè, a me sembra una cacciara proprio. Dopo tanto tempo si è accettato il VAR, io penso che in questo momento sia giusto lasciare tutto com'è a tuttora. Non mi piace. Se c'è una situazione sotto gli occhi di tutti che è chiara, la devono vedere loro. Che dobbiamo chiamare? Cioè, abbiamo già tanti pensieri durante la partita, dobbiamo pure chiamarci il VAR. Ma è la gente che sta lì che fa. Mi sembra che non abbia avuto grandissimi consensi l'ipotesi del VAR a chiamata. Questa era una carrellata di allenatori: Conte, Inzaghi, Iachini, Maranga, Gasperini, Pioli, Gattuso. Ho fatto un po' il conto della serva. Tutti contrari tranne Gattuso, favorevole, e Maran, che fondamentalmente dice: ma però se ci fosse uniformità di giudizio potrebbe anche non servire questo strumento. Ma come in più. Va bene così, come dice Pioli? Sai cos'è? Che se hai il VAR a chiamata un bel po' di alibi ti cadono, perché non c'è più l'errore cui appellarsi quando perdi, eccetera eccetera, quindi ti cade un pezzettino di quel muro lì. Invece io sono perfettamente d'accordo con quelli contrari, ma Luca Marelli lo sa. Ciao Luca. Ciao a tutti. Però mi sarei atteso meno nettezza da parte degli addetti ai lavori nel bocciare l'ipotesi. Abbiamo detto venerdì che si tratta di un'ipotesi, che molto probabilmente il 29 febbraio all'IFAB non succede niente, e questo l'abbiamo detto. Mi sarei aspettato meno nettezza, Luca. Ma lo sai che a me invece ha cosa stupito? Quello che ha più o meno detto Carlo fra le righe. Il fatto che tra questi allenatori che si sono espressi contrariamente ce ne sono alcuni che si sono tanto lamentati del VAR. Appunto. Perciò non capisco per quale motivo dovrebbero opporsi. Cioè, se loro l'hanno visto in campo ed erano sono stati così tanto bravi da vedere in campo qualche errore, per loro chiamalo, essere lo un chiami, vantaggio poter lo chiami, esatto. Lo chiami, poi lo riguardano e poi vediamo. Perché a quel punto io non puoi più dire: ma perché non sono andati al VAR? Ma perché non l'ha riguardato? No, hai la possibilità di chiamarlo. Lo chiami tu e poi vediamo, poi magari discuti delle tue sconfitte. Infatti, esattamente quello che penso, cioè, a parte che comunque sai è una ipotesi molto lontana, però se se ne discute è meglio. Filosofia, però filosofeggiando io la vedo così. Carlo, ti ricordi quando ti ho detto i motivi per cui sono favorevole al challenge? Uno di questi era la responsabilizzazione degli allenatori e che Conte mi dice: abbiamo tante cose cui pensare, ma chi se ne frega? Cioè, se poi non ti, poi però se hai tante cose cui pensare, guai a te la prima volta che ti lamenti. No, invece secondo me il lamento ci può stare, l'importante è che sia fatto in modi che spesso invece non vengono praticati. Il lamento e la critica esistono e devono esistere anche nei confronti del lavoro dell'arbitro e del VAR, soprattutto da parte di un addetto ai lavori che si gioca tanto magari su una decisione. Il lamento non è la protesta spesso sguaiata, il lamento è semplicemente ragionare tra colleghi addetti ai lavoro su che cosa sia funzionato e su che cosa invece sia andato meno bene. Io non so se oggi sarebbe servito il VAR a chiamata per risolvere alcuni dei casi di giornata. Mi segnalava Luca Marelli un Samp Fiorentina ricco di episodi come raramente gli è capitato di trovare in questi mesi. Sì, soprattutto il primo tempo è stato per certi versi incredibile. Obiettivamente, se nel complesso il Rati non ha arbitrato male, è anche vero che nel primo tempo si è perso praticamente tutto. I due rigori sono stati assegnati con field review giuste entrambe, perché sono un tocco di mano molto molto largo da parte di un difensore che mi sfugge il nome, e poi un fallo di Murru era abbastanza Ramirez il netto. Tocco di libera. Ramirez, sì, e il secondo invece una gomitata involontaria, imprudente, come vediamo tante a centrocampo che vengono punite col cartellino giallo, ed infatti la soluzione è stato il calcio di rigore e il secondo cartellino giallo per Murru, sul quale c'è poco a discutere. Oggettivamente comunque erano episodi che il Rati doveva vedere in campo. Sì, Ramirez e Murru, uno ammonito, l'altro espulso, che mancheranno la partita di settimana prossima a San Siro contro l'Inter, erano in diffida. Murru poi è stato addirittura espulso e quindi entrambi saranno squalificati. Andiamo a Juventus-Brescia, partita terminata 2-0, arbitro Chiffi, al VAR Giacomelli. La polemica della settimana, perché di questo dobbiamo parlare, gira tutto intorno all'intervento di Cuadrado in ritardo su un giocatore del Brescia. Siamo nella prima metà del primo tempo, il punteggio è sullo 0-0, Chiffi fischia fallo, l'intervento è molto duro, il giocatore del Brescia resta un po' per un po' a terra, fischia fallo ma non prende alcun provvedimento disciplinare. Scrivono tanti tifosi, evidentemente non della Juventus, andava espulso, e mostrano immagini di altri interventi sanzionati o non sanzionati in questo campionato. Vorrei capire da te, Luca Marelli, qual è la tua opinione. Che manca il cartellino giallo, oggettivamente. Il fallo è stato fischiato, ma non si può riprendere senza una sanzione disciplinare. Cartellino rosso non è in discussione, per un motivo molto semplice, lo si vede dal video, non tanto dal fermo immagine, perché il fermo immagine, come ho sempre detto, come ho sempre affermato, è a volte ingannevole. Nel momento del contatto la gamba destra di Cuadrado è piegata e perciò già il piede a martello cade. E nel momento in cui c'è il contatto, Cuadrado ritrae immediatamente la gamba, perciò non affonda il colpo, molto diverso da quello di ieri a Bologna, che è stato effettivamente un fallo molto molto duro, a piede a martello e non tolto all'istante, come pure diverso da quello che abbiamo visto in Lecce-Inter, che andava invece sanzionato con un cartellino rosso. E la verità è che, Giovanni e Carlo lo sapete benissimo, è che si dimentica spesso quello che è successo recentemente, poi purtroppo si alimentano queste polemiche molto strumentalmente. Cioè, su questo episodio, in un raduno arbitrale, ci si sofferma per 20 secondi, se sì, no, per pochi istanti, per segnalare il fatto che Chiffi ha sbagliato a non ammonire, e questa è una penalizzazione dal punto di vista disciplinare abbastanza evidente. È un peccato, perché tra l'altro Chiffi oggi non ha arbitrato male, però manca sempre quella personalità, perché troppe volte si è fatto accerchiare da giocatori di entrambe le squadre per protestare, però purtroppo rimane l'errore sul cartellino giallo che non è stato estratto. Ok, evidentemente non c'era possibilità di intervento del VAR, essendo un potenziale cartellino giallo e non un potenziale cartellino rosso. Invece mi sembra che sull'espulsione di Aie ci sia poco da dire, doppio giallo in 5 minuti. Sì, anche in questo caso poco da dire, obiettivamente, soprattutto il secondo. Possiamo discutere se fosse dentro o fuori area, però a mio parere la spinta, che non è una trattenuta, ricordiamocelo sempre, solo la trattenuta si concretizza al momento in cui si conclude, mentre invece una spinta è un fallo di gioco che deve essere considerato al suo inizio. Possiamo discutere sul dentro fuori, per me è fuori comunque. E sul giallo non c'è proprio nulla da dire, chiaramente c'era la chiara possibilità che il giocatore Ramsey si impossessasse del pallone, perciò è una chiara spa sulla quale c'è poco da discutere. Cioè, ha interrotto un'azione potenzialmente pericolosa. Ventesimo del primo tempo, ammonito Bonucci per un fallo su Aie, su una palla persa sulla tre quarti dalla Juventus. non c'è chiara occasione da rete, quindi non c'è cartellino rosso, giusto Luca? Assolutamente, per due motivi. Il primo perché c'è un difensore che sta per stringere, anche in questo caso mi sfugge il nome, Danilo. Francamente credo che sia Danilo. E il secondo motivo è che il controllo è stato piuttosto impreciso, il pallone si era allungato molto, perciò pensare che ci fosse pieno possesso del pallone è abbastanza avventuroso. Il giallo la ritengo la decisione corretta. E poi chiudiamo con Lecce Spal 2-1, arbitro guida Alvar Valeri, che è stato l'arbitro di Milan-Juventus di Coppa Italia 3 giorni fa. Da ieri gira sui social l'immagine di Lapadula che colpisce di testa e colpisce il braccio di Bonifazi che gli sta saltando davanti. 28esimo del primo tempo, tutti, soprattutto i tifosi del Milan, a chiedere: ma come? C'è Valeri, Alvar non richiama per il calcio di rigore, e Cerri, e Calabria, e Bonucci, e Zerischi. Questo è un episodio che assomiglia molto a quello di Bonucci a Verona. Tra l'altro anche ieri a Lecce nessuno se n'è accorto in campo, tanto vero che non c'è stata la minima protesta. Diciamo che Valeri, io ti do questa interpretazione: se Fabbri è stato attentissimo in Verona-Juventus e ha colto perfettamente il tocco di mano di Bonucci, che era punibile e che era da cartellino giallo, ieri non se n'è accorto perché non ha avuto l'intuizione che potesse esserci qualcosa di irregolare. Chiaro che questo è un calcio di rigore perché il braccio di Bonifazi è larghissimo, e se un giocatore salta in quella maniera si assume il rischio che un tocco di braccio venga punito col calcio di rigore. Mi ho parlato molto spesso in passato del fatto che ci sono episodi nei quali la fortuna può avere una sua valenza. Ecco, in questo caso la fortuna era andata contro a Bonifazi perché quel braccio non andava chiaramente sanzionato. Se la Padula non l'avesse colpito di testa e non avesse deviato il pallone sull'abbraccio, non ci sarebbe stato nulla, sarebbe stato fortunoso il fatto che non ci fosse stato tocco di braccio. C'è stato, andava sanzionato, c'era un calcio di rigore e Valeri non l'ha visto. E con questo abbiamo risposto alle curiosità di tanti. Grazie Luca. Ciao Luca. A voi, ciao, buon lavoro. Presto. Ciao ciao. Grazie Luca Marelli. Intanto vi do un aggiornamento su Cagliari-Napoli. 44esimo minuto in corso, 0-0 risultato. C'è il Napoli che ha avuto qualche occasione in più rispetto al Cagliari, ma fondamentalmente fin qui il pareggio mi sembra il risultato giusto. Mentre Brindisi è rientrata in partita nella finale di Coppa Italia a Pesaro. Un minuto alla fine del secondo quarto. Umana Reyer Venezia 34, Happy Casa Brindisi 28. A un certo punto Venezia era in vantaggio di 12 punti, 24-12, da lì in poi è però cominciata una partita diversa. Brindisi ha cominciato a mettere dentro anche qualche canestro da 3 punti, 2 su 12, ha aggiustato un po' le percentuali al tiro. Qualche errore in più l'ha fatto Venezia. Allora, Brindisi è in un grande momento, che era distrutto la Fortitudo, è una squadra di grandissimi atleti, però Venezia sta giocando da grande squadra, enorme intensità difensiva, attacchi piuttosto precisi, insomma mi sembra una Venezia al momento in controllo, anche se Brindisi è molto in grandi condizioni, arrivata benissimo a Stefano Leite. Allora, abbiamo l'ultima pausa col traffico. Quando torniamo, carissimo Carlo, parliamo con un campione del mondo. Grande. Giuseppe Gibilisco, e parliamo di Armand Duplantis, che grande. Ieri ha fatto 6-18, settimana scorsa aveva fatto 6-17 e sta cancellando l'albo dei record del salto con l'asta. Una puntata davvero eccitante. Piena di sorprese, piena di colpi di scena, e non è tutto. C'è ancora un'ultima grande sorpresa. Tutti convocati. Hai visto la nuova Fiat 500 X Sport? Nuovi paraurti sportivi, nuovo colore grigio opaco, nuovi cerchi da 19 pollici, nuovo doppio scarico cromato, nuovo assetto sportivo. Ma non era un SUV? SUV o Sport? Non una delle due, ma due in una. Scopri la nuova Fiat 500 X Sport. Totalmente SUV, totalmente Sport. Gamma 500 X da 14.900 euro oltre oneri finanziari con finanziamento, anziché 16.400 euro. TAN 6,45, TAEG 8,67. Offerta FCA Bank soggetta ad approvazione fino al 29 febbraio. Info su fiat.it. Tutti convocati. Armand Duplantis, 20 years of age. In the space of a week, a world record beckons. 6 meters, 18. For Mondo, has he got enough today? Yes, he has! Unbelievable! 6-18 a Glasgow, settimana scorsa aveva fatto 6-17 Armand Duplantis, detto Mondo. Anni 20, intanto vi dico che è finito il primo tempo di Cagliari-Napoli 0-0. Saluto Giuseppe Gibilisco. Ciao Giuseppe, buonasera, grazie per aver accettato il nostro invito. Ciao, ciao, buonasera a voi, grazie a voi. Adesso andiamo avanti come l'era Bubka, che faceva un centimetro a settimana e incassava il premio. Sì, dai, Mondo è stato molto bravo. Già l'anno scorso, quando venne a allenarsi da noi a Castel Porziano, al centro sportivo della Guardia di Finanza, si vedeva che aveva un bel motore in crescita. E quest'anno, insomma, sta crescendo, sta facendo cose veramente straordinarie. Perché salta così in alto dove gli altri non arrivano? Non so che la domanda sembra banale, ma molti di quelli che ci ascoltano conoscono poco del salto con l'asta. Certo, sostanzialmente un po' madre natura è dalla sua parte. E un po' il fatto che il padre, ex saltatore con l'asta, da 5,80 m, oggi avvocato, l'ha inserito in questo mondo all'età di 6-7 anni. Ha iniziato a saltare, avevano una pedana rudimentale lì a casa, nel giardino di casa, e lui ha iniziato a sviluppare quelle abilità che oggi dimostra che oggi mette in pratica, e c'è da sviluppare già a 6-7 anni. Quindi a quell'età lì acquisisci delle abilità che poi ti rimangono per il resto della tua vita. E niente, lui ha una caratteristica del suo salto. Il suo salto, praticamente nell'ultima fase della rincorsa, riesce ad incrementare la velocità, che era un po' quello che faceva Bubka. E dopo che lascia il terreno, lì incrementa ancora la velocità nell'esecuzione del salto, riesce a tenere questa fionda, che l'asta la riesce a tenere caricata, e quando lui decide di iniziare a salire per andare su, l'asta gli dà veramente tanta energia e lo proietta tanto. Ha uno stile imitabile da qualcuno, intendiamo di loro, non qualcuno di noi. No, io penso che il salto con l'asta va cucito addosso a ogni atleta. Salto con l'asta, ogni atleta, ad esempio Bubka saltava in un modo, io saltavo in un altro, e la Villeneuve, ex detentore del record del mondo, saltava ancora in un altro modo, e Mondo Duplantis salta ancora in un altro modo. Sono tutti similari, ma ognuno diciamo ha un salto cucito su se stesso. Qual è il limite, Giuseppe, qual è il limite assoluto di questo atleta? Penso Bubka ci ha dimostrato che il limite umano arriva sui 6,35-6,40. Mondo può arrivare dai 6,25-6,30. Quindi significa che da una botta di un paio di decenni, una volta che ci arriva. Ma sì, dai, guarda, io spero tanto per lui che riesca a regalarci ancora emozioni importanti e che dia ulteriore stimolo al mondo del salto con l'asta per fare meglio. Come sta il mondo del salto con l'asta? Ma in Italia c'è l'unico saltatore con l'asta e l'atleta che alleno io, che è Claudio Stecchi, e ha fatto 5,80 e da un anno che lo seguo, un anno e mezzo, qualificato per l'Olimpiade, in crescita pure lui. Bisogna essere realisti, non ha le qualità sicuramente che ha Mondo Duplantis, ma è un atleta che può arrivare ai 6 metri sicuramente. Il mondo in genere, tolto Duplantis che oggi fa un altro sport, Kendricks che sta lì e gira tra i 5,90 e i 6 metri, poi c'è il polacco Lisek che gira anche lui tra i 5,80 e i 5,90, poi ci stanno tutti gli altri. Quindi per Tokyo possiamo già considerare prenotata la medaglia d'oro? Immagino di sì. Io penso di sì. Se non si ammala, se... Duplantis oggi ha dimostrato di essere veramente una spanna sopra gli altri. Fa un altro sport al momento, cioè realisticamente parlando fa un altro sport. Chiede un amico se nel salto con l'asta fatto il 100% conta di più potenza o più la tecnica. Ma conta un po' tutto, conta la sicurezza, conta l'abilità, conta la velocità d'entrata e l'incremento di velocità subito dopo che lasci il terreno. E tutto fa brodo nel salto con l'asta. Ciò non significa che se tu sei un velocista da 10-0 salti 6,5 metri, attenzione. Ci sono atleti che hanno saltato 6 metri entrando a 9 metri al secondo. Duplantis è uno di quelli che entra a 9,6, 9,7 metri al secondo. Però ci sono atleti che hanno saltato 6 metri, insomma, correndo anche non velocissimi, diciamo così. E tutto c'è il salto con l'asta, il saltatore con l'asta deve riuscire a sfruttare l'attrezzo. Per questo dico che il salto va cucito addosso all'atleta. Per di capire però che, potenza, che rispetto all'epoca Bubka si siano anche un po' asciugati a livello di potenza come fisico i saltatori con l'asta. Sì, all'epoca, diciamo che l'epoca Bubka era più basata sulla forza, forza prettamente pura. Oggi il salto con l'asta è basato sulla velocità di esecuzione. La velocità di esecuzione è data, come diceva il buon professor Carmelo Bosco, il nostro scienziato, mio conterraneo, la stiffness, che è quella che ti dà, quella che ti permette di avere tanta potenza, cioè dire la contrazione e la decontrazione. Oggi tanti atleti, o meglio, sono pochi gli atleti, e Mondo è uno di questi, Bolt era uno di questi, che riescono a esprimere potenza rilassandosi, capisci? Non so se, mentre prima si esprimeva potenza contraendo il muscolo, oggi si riesce, questi pochi atleti riescono a esprimere potenza rilassando il muscolo, che contrarlo è facile. Rilassarlo è complicato andando su a 6 metri. Andare forte, andare a quelle velocità ed essere rilassati allo stesso tempo è una cosa che in pochi sanno fare. Grazie Giuseppe Gibilisco. Ciao. Grazie. Grazie, un abbraccio. Ciao, alla grazie. Prossima, un abbraccio. Ciao, anche a te. E abbiamo finito. Vi aggiorno ancora sulle due gare che stiamo seguendo: 0-0 all'intervallo a Cagliari, tra Cagliari e Napoli. Poi alle 20:45 ci sarà Lazio-Inter. Siamo nell'intervallo lungo anche a Pesaro, finale di Coppa Italia. Venezia avanti di 4 punti dopo aver dominato nel primo quarto. Umana Reyer Venezia 34, Happy Casa Brindisi 30. C'è ancora metà partita da giocare. Io ringrazio te, Carlo Genta. Ciao Giovanni. Ringrazio Claudia Schiattone, autrice di questa puntata, Roberta Frisani e Andrea Roccabella in regia. Domani dopo il GR delle 14 vi sentite con me e torno anche domenica rigorosamente in diretta a partire dalle 17. Ciao. Minchia, è stato una montagna russa. Ci vediamo domani. Enjoy. Saluti.